GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Apriamo parlando di euroscetticismo. Infatti i sentimenti euroscettici continuano a diffondersi tra i cittadini britannici. Secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Harris per il Financial Times, nell'ipotesi di un referendum dentro o fuori, il 50% voterebbe out, mentre solo il 33% sceglierebbe in, mentre il restante 17% appare indeciso. Il premier britannico David Cameron, che finora aveva resistito alle numerose richieste di una consultazione popolare sul tema, il mese scorso ha ceduto e ha promesso un referendum per il 2017. L'avvio formale della missione militare europea di addestramento in Mali è una decisione storica per una missione che non è priva di rischi. Questa è la valutazione del generale Patrick de Russier, presidente del Comitato Militare dell'UE, che ha avvocato da una parte i rischi di attacchi terroristici, dall'altra la necessità di applicare i metodi affinati in 10 anni di Afghanistan. La missione, cui partecipa anche l'Italia, a pieno regime, sarà composta da quasi 500 militari. L'accordo sulle sanzioni alla Siria ci sarà, se ne è detta sicura Catherine Ashton, la rappresentante della politica estera europea, arrivando nella sede del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles. Il tema è, assieme alla situazione in Mali, uno dei punti all'ordine del giorno della riunione. La Gran Bretagna vorrebbe una modifica. Altri ministri, tra i quali quello tedesco e quello spagnolo, si sono invece espressi a favore del mantenimento del pacchetto di sanzioni che scade il prossimo 28 febbraio. Di sicuro la situazione sul terreno è molto complessa. L'emergenza umanitaria rimane gravissima dentro e fuori i confini del paese. Sul Mali, il dibattito fra i ministri degli esteri consentirà di fare il punto sulla crisi e tracciare una roadmap per le prossime settimane. Il ministro degli esteri italiano, Giulio Terzi, sottolineerà che è indispensabile sostenere la stabilizzazione del Mali e rivolgerà ai suoi omologhi un forte appello alla concretezza, ricordando che occorre puntare sul sostegno finanziario. Una prima tranche di 20 milioni di euro ha già avuto luce verde dalla Commissione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si è parlato anche di diritti civili e della tutela della libertà di religione e di credo, per la quale l'Italia si è battuta. Sarà anche questo una priorità dell'Unione Europea, della sua politica di difesa e dei diritti umani. Le linee guida sono state approvate proprio oggi dal Consiglio dei Ministri degli Esteri. È di estrema rilevanza, ha sottolineato il ministro Terzi, l'inserimento di questo aspetto al quale l'Italia teneva molto e per il quale abbiamo insistito, di un paragrafo concernente la tutela della libertà di religione e di credo. E a Strasburgo, una delle sedi del Parlamento europeo, hanno manifestato tra 10 e 45 mila curdi, secondo le stime rispettivamente di prefettura e organizzazione, per chiedere la liberazione del leader del PKK, Abdullah Öcalan, in carcere su un'isola prigione nel Mar di Marmara, e per reclamare la giustizia dopo l'uccisione delle 3 attiviste il mese scorso a Parigi. Bene, con questa notizia abbiamo concluso. Ancora un saluto da Gigi Donelli. GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.